2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13:10. Potete contattarmi attraverso LinkedIn, Twitter o Facebook. La prima notizia che vorrei darvi in questa puntata è che abbiamo lanciato, dico abbiamo perché poi capirete per quale motivo, la nuova applicazione che aggrega tutte le radio italiane. Quindi abbiamo come Radio Italiane lanciato questa nuova applicazione che si chiama Radio Player Italia. Potete trovare maggiori informazioni su radioplayeritalia.it oppure potete andare sull'Apple Store, sul Play Store, quindi sul negozio, sull'app con cui scaricate l'applicazione sul vostro smartphone per scaricare l'applicazione. Potete ascoltare tutte le radio italiane, anche alcune radio locali, quindi è sicuramente una buona cosa, tutti insieme in un'applicazione. Ovviamente potete ascoltare le trasmissioni in diretta e anche tutti i podcast. Radio Player Italia, provate e poi scrivetemi e datemi il vostro parere. Adesso alcune notizie selezionate durante la settimana. Digital News. Beh, sicuramente la notizia più importante della settimana riguarda l'acquisizione da parte di Intel della startup israeliana Moovit, scritta Moovit, per circa 900 milioni di dollari. L'idea è sfruttare le competenze nella gestione della mobilità e integrare questa tecnologia, che pensate è utilizzata da 800 milioni di utenti in 102 paesi, con i sistemi per la guida autonoma di Intel Mobileye, per aggredire ancora più vigorosamente un mercato come quello di robotaxi. Anche Intel ritiene che a partire dal 2022 circa questo mercato comincerà a decollare. C'è già qualche esperienza negli Stati Uniti in poche città, servizi sperimentali di robotaxi, quindi taxi robotici autonomi, che tu li chiami con un'applicazione e ti vengono a prendere. Ricordiamo che Moovit è un'applicazione che ti dà un sacco di suggerimenti quando tu ti trovi in una città sconosciuta e ti vuoi muovere dal punto A al punto B, oppure anche in una città conosciuta, invece di utilizzare le app dei servizi pubblici locali, che non sempre sono fatte benissimo. Ad esempio, noi abitiamo a Milano, ci spostiamo a Milano, dove l'ATM Milano ha fatto un'applicazione assolutamente fatta molto bene, ma purtroppo non in tutte le città c'è un'applicazione fatta così bene, quindi i casi sono due: o chiamate l'ATM e vi fate prestare diciamo il cuore dell'app e la rifate partendo da lì, oppure appunto si utilizzano app come Moovit, che è molto fatta molto bene, funziona molto bene. Insomma, del resto non è un caso che ci siano 800 milioni di utenti in 102 paesi nel mondo. Parliamo di Singapore, che ha prolungato le restrizioni per il coronavirus fino al 1 giugno. Non so se mi spiego, fino al 1 giugno Singapore, che sembrava essere una delle nazioni che meglio avevano affrontato e sicuramente meglio stanno affrontando la situazione, e qui invece si vuole riaprire tutto, insomma la cosa non è semplice. Comunque Singapore sta utilizzando anche i robot per far rispettare il distanziamento sociale. Le restrizioni permettono di uscire solo per fare la spesa, per altre necessità e per fare sport al parco, ma sempre con la mascherina e sempre da soli. Allora, per 2 settimane viene utilizzato questo cane robot a 4 zampe in maniera sperimentale. È un esperimento che stanno facendo, è un test per 2 settimane. Allora, è un cane robot che ha, appunto come i cani, 4 zampe, prodotto dalla Boston Dynamics. E probabilmente avrete visto video dei robot della Boston Dynamics incredibili. Che cosa fa questo cane? Va nei parchi della città, di questa città-stato in Singapore, si avvicina alle persone con voce femminile molto gentile, dice di rimanere a distanza l'uno dall'altro. Sappiate che però a Singapore non è che sono tanto gentili se uno va contro le regole, quindi arriva il cane, ti dice di non stare troppo vicino e di metterti la mascherina, se non lo fai arriva qualcun altro umano e ti mettono in alcuni casi anche in galera. Veniamo all'Italia. Microsoft ha annunciato un piano di investimento da 1,5 miliardi nei prossimi 5 anni. che comprende molta formazione per fare capire che cosa vuol dire, che cosa significa fare trasformazione digitale, la famosa digital transformation. Ovviamente c'è una particolare attenzione al cloud, non è che Microsoft fa la formazione pensando ad altri, pensa alla digital transformation in generale, ma ovviamente pensa anche a tutti i servizi che Microsoft propone attraverso migliaia di partner, perché la struttura, il network anche in Italia di Microsoft è veramente molto esteso, e ovviamente una grande attenzione c'è sul cloud, anche perché Microsoft ha annunciato, direi anche finalmente, l'apertura della Region Italia. Le società che si occupano di cloud parlano di region, di un'area, e quindi l'area italiana vuol dire che alcuni servizi verranno erogati da un data center che si trova sul suolo italiano, in particolare nell'area di Milano. Sempre in settimana Microsoft ha annunciato un investimento da $1 miliardo in Polonia per i prossimi 7 anni. Anche in Polonia è stata aperta una region. C'è molto fermento in questo settore, e pochi giorni fa anche Amazon Web Services, quindi la parte di Amazon che eroga servizi cloud, che è attualmente numero uno al mondo, Microsoft è tallona e insegue ed è il secondo player più importante in questo settore. Amazon Web Services AWS ha annunciato l'apertura della Region Italia, ed è un segnale di attenzione verso il nostro paese sicuramente importante, e anche sinonimo che questo mercato sta crescendo anche da noi. Adesso parliamo di una startup californiana che è abbastanza nota quando si parla di innovazione nel settore finanziario. Si chiama Robinhood Markets, una startup californiana appunto che si occupa di investimenti soprattutto rivolta ai più giovani, fa tutto via app o via sito internet, non ha negozi, non ha persone che girano. Ha raccolto altri $280 milioni che fanno lievitare la valutazione di questa società a 8,3 miliardi. E uno dice, ma perché vale così tanto Robinhood Markets? È forse la più nota app di investimento che non applica commissioni, un modello particolare, perché tutti quelli che piazzano investimenti sul mercato in qualche modo una commissione se la prendono. E invece questa startup è stata una delle prime, se non la prima, a inaugurare questo nuovo trend, e si finanzia ovviamente con altri sistemi, cioè facendo pagare magari per qualche servizio premium, oppure lucrando sugli interessi. Uno tiene magari i soldi sul conto prima di fare un investimento, e in quel modo lì, come le banche naturalmente, guadagnano con gli interessi e con il reinvestimento. Insomma, è un modello molto interessante per il momento, che però è rivolto al mercato americano. Un'altra startup, in questo caso Orca Security, israeliana, si occupa di sicurezza in cloud, ha raccolto $20 milioni. Orca è stata fondata da alcuni ex dipendenti di Checkpoint Software Technology. Checkpoint è una delle più autorevoli società che si occupano di cyber security. A proposito di israeliani, prima non ho detto una cosa che comunque è abbastanza importante: Movite israeliane, questo l'abbiamo detto, questa tecnologia verrà utilizzata assieme a Mobileye, che è stata integrata in Intel, e anche Mobileye era una startup israeliana che produce sistemi di visione artificiale per la guida autonoma. E quindi Israele si conferma come un grande hub di innovazione e di creatore di grandi startup che poi fanno delle exit molto importanti, perché parliamo di centinaia di milioni di dollari oppure anche di miliardi di dollari. Un'ultima notizia riguarda ancora l'Italia: il comitato Banda Ultra Larga ha sbloccato risorse per quasi $1,5 miliardi per incentivare, attraverso incentivi, l'adozione di collegamenti ad internet per famiglie, aziende e per le scuole. Questo è un piano molto articolato che merita un approfondimento, lo faremo nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi, quando avremo maggiori dettagli su tempi e modalità di erogazione di questi incentivi. Sono proprio soldi che vengono erogati per incentivare l'uso di banda larga. C'è un piano molto vasto che vale circa $400 milioni per quanto riguarda le scuole. E dicevo, dovremo avere ancora dettagli su tempi e modalità. Per quanto riguarda i tempi, le risorse saranno disponibili entro l'estate. Molte aziende italiane e anche molte aziende internazionali consentiranno ai dipendenti di lavorare da casa fino a settembre e alcune addirittura fino a fine anno. Ovviamente stiamo parlando dei dipendenti che possono continuare a lavorare in remoto. Alcune fiere come il Salone del Libro Italiano faranno la loro edizione 2020 solo in modo digitale. Devo dire che abbiamo fatto un giro di telefonate presso le aziende che si occupano di fiere in Italia, le principali. Molti ci sembrano alla finestra per capire come procedere, ma sicuramente una analisi di quello che si potrà fare in modo digitale un po' tutti la stanno facendo. A proposito di eventi solo online e solo digitali, la Apple farà online la consueta conferenza internazionale di giugno per gli sviluppatori, dove solitamente arrivavano in migliaia. Il Teatro alla Scala di Milano, in attesa di riaprire, ha deciso di mettere in scena su YouTube Simon Boccanegra di Verdi. 92 artisti, coristi, musicisti hanno registrato da casa loro in 5 continenti diversi. Ogni traccia è stata mixata assieme alle altre per dar vita al finale del primo atto dell'opera. Questi sono soltanto alcuni esempi di come si sta reagendo, sono le notizie degli ultimi giorni. Anche noi al Sole 24 Ore ci siamo organizzati e abbiamo una ricca attività di convegni che si sta digitalizzando. Questa settimana è stato organizzato per il GSE, il gestore dei servizi elettrici del sistema elettrico nazionale, il loro evento nazionale, il loro evento annuale, che ha raccolto, pensate, 2300 persone online con una permanenza di oltre un'ora, quindi un'attenzione molto importante. Pensate che nel mondo normale, nel mondo fisico, raccogliere 2300 persone richiede, oltre che un investimento molto ingente, anche un'organizzazione particolarmente imponente. Dal prossimo venerdì inizierà Join 2020 Digital Edition, un ciclo di appuntamenti sulla trasformazione digitale organizzati da Digital Magix in collaborazione con il Sole 24 Ore. Insomma, ci stiamo organizzando in una dimensione che sicuramente cambierà molte delle dinamiche alle quali noi siamo abituati. Saluto l'amministratore delegato di 24 ore 20, Federico Silvestri, benvenuto a 2024. Un saluto a tutti, grazie. Beh, 24 ore 20 è la nostra divisione che si occupa appunto di eventi, convegni, grandi appuntamenti, fino a poco fa prevalentemente in modo fisico, anche se c'era già una certa esperienza del mondo digitale. Beh, oggi però bisogna ripensarsi, trasformare il modello di business, e penso che questo sia un buon esempio di che cosa vuol dire utilizzare la tecnologia per reagire a questo momento. Che cosa sta accadendo? Beh, diciamo che noi stiamo esplorando questo mondo perché era un mondo interessante a prescindere. Poi questa situazione ci ha imposto di terminare l'esplorazione e trovare delle soluzioni. Quindi noi già da subito abbiamo proposto al mercato delle soluzioni che in buona sostanza convertono in versione digitale quel palinsesto che noi avevamo immaginato per una fruizione fisica. Quindi abbiamo riconvertito tutta l'esperienza proponendo diciamo a tutti gli interessati di vivere lo stesso tipo di esperienza in una modalità diversa, quindi in questo caso tutto al digitale. E come state immaginando questi eventi? Perché immagino che una delle difficoltà sia ricreare anche l'interazione tra le persone che partecipano. Molto spesso si dice: vado ad un evento perché poi mi incontro con le persone, mi incontro con i relatori, mi scambio il biglietto da visita, banalmente. Allora, noi in questo momento abbiamo immaginato due livelli. Un primo livello è un tipo di esperienza che sostanzialmente è molto vicina all'esperienza broadcast, quindi televisiva, dove l'evento può essere fruito in streaming. Non a caso il nostro prodotto si chiama Livestream 24, e quindi diciamo i relatori in una tavola rotonda ideale dibattono dell'argomento che si intende approfondire con i partecipanti che ascoltano e quindi fruiscono dell'evento come fossero una platea. Questo diciamo abbastanza semplice, e poi tra l'altro è una cosa già sperimentata, perché se guardiamo sempre a casa nostra Telefisco fa questo da tanto tempo. Assolutamente, è un riferimento che noi appunto sperimentiamo da anni, estremamente consolidato, però rilanciamo forte moltiplicando gli eventi con questo tipo di fruizione. Poi, come dicevamo, c'è un secondo livello di esperienza, che è un livello decisamente più interattivo. Infatti in questo caso il prodotto si chiama Interactive Event 24, dove c'è una vera e propria interazione tra chi diciamo è protagonista dell'evento, e quindi i relatori e i partecipanti. Quindi da questo punto di vista molteplici sono le possibilità, da il classico sistema di domanda e risposta, quindi durante l'evento i partecipanti rivolgono alla platea, rivolge domande ai relatori, piuttosto che sondaggi in real time. Quindi tantissime possibilità per vivere un'esperienza profonda interattiva, oltre al fatto che poi i relatori stessi integrano le loro esposizioni con contenuti multimediali come slide, video e quant'altro. Quindi veramente un'esperienza molto più completa a 360 gradi. È un'esperienza più complessa rispetto a una lezione di scuola di una università, che in questi giorni e in queste ultime settimane si stanno facendo. Soprattutto le università si sono organizzate subito, le scuole un po' più lentamente, però questa forse è un po' più sofisticata. Certo che è molto sofisticata, tanto è vero che la gestione di un evento di questo tipo prevede una vera e propria regia che deve coordinare tutte queste interazioni di cui abbiamo parlato, e quindi è veramente complesso come produrre una trasmissione televisiva. Quindi non solo c'è una regia, ma c'è un sistema di moderazione, perché naturalmente le domande di cui abbiamo parlato vanno evidentemente valutate preventivamente, gestite, certo, chiaro, assolutamente. Quindi è una complessità importante, che infatti però poi consegna un'esperienza veramente piena, e quindi paragonabile alla fruizione fisica dell'evento. Che cosa si può fare ancora di più, se si può fare qualcosa di più? Noi stiamo già esplorando altro tipo di evoluzioni, e quindi pensiamo che a breve arriveremo, a brevissimo, quindi parlo nel giro di qualche mese, a delle soluzioni immersive complete, che quindi potranno replicare al 100% l'esperienza in digitale di un evento fisico. Quindi immaginiamo una piattaforma che gestisce l'evento, dalla hostess virtuale che fa l'accoglienza e la registrazione, alla interazione con una platea plassé, quindi seduta, e quindi il vicino che può chattare col vicino in un'area limitrofa delimitata, attraverso un sistema di room e quindi di camere che consente di visitare virtualmente tutte le stanze previste dalle conferenze, e quindi moltiplicando, come ci immaginiamo, tutte le esperienze che si desiderano costruire. Se noi guardiamo a quello che è successo fino a poche settimane fa nel mondo delle fiere e nel mondo degli eventi, abbiamo visto un grandissimo successo degli eventi fisici e una difficoltà nel creare eventi digitali, che esistevano, le tecnologie esistevano già. Tu pensi che quello che noi stiamo sperimentando in queste settimane sarà una sorta di evento digitale per tappare un po' la situazione, e poi torneremo appena possibile, speriamo presto, a eventi fisici, o qualcosa rimarrà? Perché anche culturalmente non è un passaggio facile, no? Ma allora, io penso che qualcosa è già accaduto, nel senso che tutta una serie di preconcetti, uso questo termine, verso molte declinazioni del tipo digitale. Pensiamo ad esempio al mondo dello smart working. Fino ad oggi nel mondo degli eventi il digitale era considerato quasi un minus, un refugium peccatorum. Abbiamo imparato che non è così, ma lo abbiamo fatto per necessità, e abbiamo scoperto invece tutte le potenzialità di questo tipo di fruizione. Quindi ciò che è probabile è che nel prossimo futuro noi avremo entrambe le esperienze, quindi gli eventi fisici naturalmente hanno ragione di essere e continueranno a vivere, ma vediamo che ci sono tutta una serie di altra tipologia di eventi che forse hanno più senso in versione digitale. Faccio un esempio: gli eventi con grande partecipazione internazionale sicuramente sono molto più semplici e molto più economici da organizzare in una fruizione digitale, quindi sarà un'esplosione, una moltiplicazione di opportunità, perché ciò che prima era difficile da organizzare oggi invece facilmente si può organizzare, quindi sicuramente è molto interessante, e quindi siamo alla vigilia della contemplazione di un nuovo ecosistema. Ti faccio un'ultima domanda sulle competenze e anche le piattaforme tecnologiche. Voi avete fatto una selezione di partner e di tecnologie. È stato facile, difficile? Cioè, e si trovano sia competenze sia soluzioni tecnologiche per fare eventi digitali, o siamo veramente ancora in un mondo poco frequentato? Secondo me è una platea già sufficientemente ampia e competitiva. Chiaramente, come sempre in tutte diciamo le verticalità di mercato, c'è dentro di tutto, però ci sono anche molti player seri, ci sono molte piattaforme già performanti. Chiaramente il binomio è la capacità trasmissiva, che deve essere sicuramente iper garantita e stabile, e le performance delle piattaforme, perché chiaramente ciò che l'imprevisto, che in un evento fisico è sempre rimediabile, quando c'è di mezzo la tecnologia invece tutto deve essere stabile, backuppato e certamente funzionante, altrimenti allora si diventa un flop. Grazie a Federico Silvestri per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie a voi. Penso anch'io che molto di questo rimarrà, cose che fino a poco tempo fa molti snobbavano, oggi diventano quasi normali e lo saranno sempre di più, cioè ci si accorgerà che molte cose si possono fare tranquillamente online. E questo significa che dovremo sviluppare nuove tecnologie, quindi anche nuove piattaforme, nuove competenze, ad esempio anche competenze personali, perché se uno deve partecipare ad un evento del genere anche attivamente, magari era abituato a stare su un palco e oggi non è più importante essere su un palco, o comunque non è solo importante questa dimensione, ma lo sarà sempre più anche quella digitale. Tra poco parleremo di cyber security e poi parleremo anche di prop tech. Che cos'è il prop tech? Lo scopriamo tra poco. Adesso invece parliamo della app Immuni, o meglio, parliamo della tecnologia che sta sotto a questa applicazione. Intanto vi informo che il garante per la protezione dei dati personali, garante della privacy, Antonello Soro, ha detto e ha ribadito che l'app Immuni per il famoso contact tracing ha tutti i caratteri del rispetto delle norme sulla privacy. In effetti l'adesione allo schema Apple-Google mette al riparo da qualsiasi dubbio, da qualsiasi problema. Però abbiamo alcuni aggiornamenti da fare di questa settimana. Roberto Pezzali è un giornalista esperto di tecnologia della redazione di dday.it. Roberto, bentornato a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ricapitoliamo molto brevemente che cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto e che cosa stanno facendo Apple e Google per favorire lo sviluppo di queste applicazioni per fare il contact tracing. Beh, Apple e Google si sono rese conto che c'era un problema molto serio, ovvero i dispositivi non parlavano bene uno con l'altro. L'Australia e altri paesi che hanno sperimentato applicazioni prima di noi hanno scoperto e si sono arenati davanti a questi problemi dei vicoli ciechi. Senza l'ingresso, diciamo, nel campo delle app di contact tracing di chi ha fatto i sistemi operativi era impossibile sorpassare questi ostacoli. L'hanno fatto, hanno creato delle istruzioni apposta, si chiamano API, quindi delle librerie apposta che gli sviluppatori possono utilizzare per creare queste app e renderle quindi efficaci e ben funzionali. Ricordiamo che queste istruzioni, questo software che Apple e Google hanno già in parte sviluppato e che stanno ancora sviluppando, viene messo a disposizione solo ed esclusivamente dagli sviluppatori ufficiali scelti dalle autorità di ogni nazione, giusto? Sì, esatto, solamente uno sviluppatore per paese, oppure nel caso in cui ci siano dei paesi tipo gli Stati Uniti dove ogni stato vuole fare un'app diversa, viene reso disponibile a uno sviluppatore per stato, ovviamente, ma non ci possono essere più app nel singolo stato, proprio perché l'app deve essere una, deve essere conosciuta e deve diffondersi il più possibile. Quindi questo è un limite che ha messo. Ok, perfetto. Diciamo che quindi aver scelto di utilizzare per lo sviluppo di questa applicazione la tecnologia messa a disposizione da Apple e Google è una buona cosa, se non altro per l'efficacia. Beh, assolutamente sì, perché se pensiamo al Bluetooth, il Bluetooth era stato utilizzato in precedenza per fare content marketing, no? Quindi per provare a tracciare anche le persone con determinate applicazioni installate quando si muovevano nei negozi. E proprio per questo motivo sono stati messi dei paletti per preservare la privacy delle persone. Apple, per esempio, impediva di utilizzare il Bluetooth se l'applicazione non era in primo piano, quindi non era aperta sullo schermo. E questo era uno dei grossi problemi che impediva di realizzare app di contact tracing. In Australia, mi pare, chiedono di tenere l'app aperta e questo consuma un sacco di batteria. La stessa cosa l'app di Singapore. Quindi, senza Apple e senza Google non si potevano fare delle applicazioni che funzionavano. Loro hanno preso lo standard Bluetooth, hanno fatto delle piccole migliorie, quindi hanno inserito anche la potenza di trasmissione tra quella di ricezione, e hanno creato un sistema che funziona tra tutti gli smartphone senza guardare smartphone nuovi, smartphone vecchi, smartphone premium, smartphone di fascia bassa. Quindi funziona e riesce a dare delle indicazioni su quelle che sono appunto la distanza tra due dispositivi e quindi un livello anche di rischio di un possibile contatto. Certo, tra l'altro Apple e Google si sono accordate per chiamare questa notifica, che poi spieghiamo come funziona, exposure notification, cioè notifica di esposizione, per quanto tempo e quanto vicino sei stato esposto al possibile contatto che poi è risultato contagiato, quindi al possibile contagio. Credo che l'abbiamo fatto anche perché forse il termine contact tracing dava l'idea del tracciamento, e dopo, come spiegheremo, non è un tracciamento, è proprio una notifica personale del fatto che tu sei stato vicino a un'altra persona che era positiva. Esattamente, che poi è risultata essere positiva. Quindi exposure notification, anche dal punto di vista di comunicazione semantico, è sicuramente forse più azzeccata. Allora, quasi ogni settimana Apple e Google fanno un punto stampa per raccontare e dare degli aggiornamenti su quello che stanno facendo. Quali sono le novità di questa settimana? Sì, esattamente. Beh, la prima, come dicevi te, è appunto che verrà distribuita a un solo ente per paese per evitare la creazione di applicazioni finte, magari civette, che possono essere usate per rubare dati. Poi Apple e Google hanno messo a disposizione anche quello che si chiama un sample code, quindi un'applicazione dimostrativa di prova per far vedere come si fa un'applicazione perfetta. Di fatto hanno quasi fatto loro il lavoro. Questa è una pratica che si usa solitamente, però in questo caso c'era bisogno di andare molto veloci, perché è urgente questa app. Ed essendo librerie nuove, strumenti nuovi, gli sviluppatori magari devono metterci un po' di tempo per capire come utilizzarlo al meglio, fare dei test. Invece hanno fatto loro, hanno detto: guardate, si fa così, fate così, vi diamo questo pezzo di codice già fatto per la parte di riconoscimento e notifica, dovete solamente seguire le istruzioni e implementarle. Quindi hanno fatto anche questa cosa, e poi hanno dato altre indicazioni per quanto riguarda la pubblicazione delle app sui rispettivi store, perché ricordiamo, quelle per Android finiranno sul Play Store di Google, quelle per Apple finiranno sull'App Store. Loro controlleranno anche che le app non raccolgono dati pubblicitari, non abbiano dentro pubblicità, e soprattutto che non utilizzino il GPS. Quindi chi utilizza questa soluzione di Apple e Google, quindi l'Italia, non può assolutamente utilizzare il GPS, viene proprio bloccata all'app la richiesta di usare il GPS nel caso in cui comunque uno sviluppatore volesse in qualche modo magari provarci. Non si può proprio, quindi dati di posizione assolutamente no, dati personali assolutamente no, l'app può fare solo esclusivamente quello che Apple e Google hanno deciso, altrimenti non viene pubblicata. Quindi se mai qualcuno non si fidasse dello stato comunque degli sviluppatori di ogni nazione, ci si può fidare tecnicamente di Apple e Google, che comunque mettono a disposizione il codice e non lo si può, diciamo, usare, ma lo si può guardare, vero? Assolutamente sì, il codice è già libero, questa sample app è già libera, si può vedere e studiare. Il codice non lo si può utilizzare proprio perché possono utilizzare solamente le persone autorizzate ad utilizzare queste librerie, quindi è open source perché tutti possono guardarci dentro, però se uno sviluppatore la prende e la scarica non può provarla, non può farsi la sua piccola app personale di prova. Molto chiaro. Dunque, c'è ancora chi dice non voglio che i miei dati personali vengano archiviati, tracciati. Di che dati personali stiamo parlando? Non ci sono dati personali di nessun tipo, c'è solamente una stringa dei numeri che vengono inviati dallo smartphone, assolutamente non riconducibili al singolo dispositivo, che vengono appunto inviati e registrati dai singoli smartphone delle persone. Quindi si scambiano messaggi che sono fatti di numeri e di lettere, messaggi totalmente anonimi, messaggi che non sono in alcun modo collegabili ad una singola persona. Quindi questi codici casuali, delle stringhe di numeri fondamentalmente, vengono scambiati dagli smartphone che si incrociano e che, Apple e Google hanno spiegato, rimangono ad una certa distanza e per un certo tempo. Quindi se uno passa di fianco a un altro in modo veloce non c'è un tracciamento, e cioè non c'è questo scambio di dati, e non c'è nemmeno se uno è a 10 metri, cioè ci sono dei parametri che poi ogni nazione può decidere di cambiare a proprio piacere, però sostanzialmente Apple e Google li hanno un po' spiegati, giusto? Guarda, allora è molto semplice, il nostro telefono ha due tabelle, una è tutto quello che dice e una è tutto quello che ascolta. Per ogni cosa che dice, per ogni cosa che ascolta, c'è un parametro che è per quanto tempo ha ascoltato quella cosa e dove distante era quella cosa che trasmetteva, quell'altro smartphone trasmetteva, quindi se era 2, 3, 4, 5 metri. Il nostro smartphone sa semplicemente quello, sa che ha ascoltato dei messaggi, alcuni più forti, alcuni meno forti, alcuni per tanto tempo, alcuni per meno tempo. Poi quando una persona viene trovata positiva dovrà decidere lei se notificare alle autorità che è positiva in seguito ovviamente ad un tampone, le autorità daranno un codice. Con questo codice la persona potrà volontariamente scegliere di inviare su un server tutti i messaggi che lei ha trasmesso, quindi quella tabella sul suo smartphone che si chiama messaggi che ho trasmesso la invia, e poi automaticamente il nostro smartphone ogni giorno controlla: c'è qualcuno di quei messaggi che io ho ascoltato? Sì, c'è, cavolo, era forte o era piano? Per quanto tempo l'ho ascoltato? Se un messaggio l'ho ascoltato per tanto tempo ed era molto forte, vuol dire che quella persona positiva è stata vicino a me, molto vicino a me, ed è c'è stata per tanto tempo, quindi potrebbe essere un possibile contatto, e a quel punto il mio smartphone prende, mi avvisa, mi dice: guarda, attenzione, sei stato vicino a una persona che è positiva. Sì, che è risultata essere positiva. Ricordiamo, giusto per specificare ancora di più, che quelli che Roberto Pezzali chiama messaggi sono delle stringhe numeriche o alfanumeriche anonime, casuali, che sono dei codici. Sì, esatto, che nel caso qualcuno riuscisse a prenderli non riesce a capire, a comprendere nulla. Quindi da questo punto di vista si può stare tranquilli. Un'altra cosa, e l'unica cosa che gira eventualmente in rete tramite i server della pubblica amministrazione, è la lista dei contatti del positivo, cioè quando uno è positivo e decide in autonomia di trasmettere questa lista, quella è l'unica cosa che gira in rete. E in realtà non gira una lista di contatti, gira semplicemente tutti i codici inviati negli ultimi 15 giorni. Sì, sì, beh certo, per contatti intendo persona. Codici anonimi, certo. Sì. E ecco, la cosa interessante e importante è che se il mio telefono, ricevendo questa lista, si accorge che c'è una corrispondenza, cioè uno di questi codici è stato vicino a me, tutta l'elaborazione del dato, quindi quello che si dice matching, quindi la corrispondenza di questi due dati, avviene sul telefono, giusto? Sì, esatto, è il telefono che verifica se quel codice l'ha sentito, come dicevo prima, forte o debole, quindi se era vicino e per quanto tempo l'ha sentito, e decide se avvisare. Non fa nulla al server, non è una notifica che viene inviata dal server, è tutto elaborazione sul singolo telefono, in locale. Molto bene Roberto, grazie per essere stato con noi, per averci chiarito questo che sarà il cuore del sistema, poi vedremo quando sarà sviluppato. Mi confermi che anche in base ai tempi di sviluppo dettati da Apple e Google, prima della metà del mese non verrà reso disponibile nulla in modo definitivo, e quindi si va verso la fine del mese, considerando che bisognerà fare un po' di test, giusto? Beh, i test li stanno già facendo, credo, perché la settimana scorsa Google e Apple hanno rilasciato gli aggiornamenti dei sistemi operativi per gli sviluppatori che includono questa funzione. Per funzionare dovranno essere aggiornati tutti gli smartphone. Per quanto riguarda Android verrà aggiornato in automatico, l'utente non se ne accorge, perché quando aggiornerà un'applicazione automaticamente si aggiornerà anche quella cosa che si chiamano Play Services, che sono, diciamo, quei servizi che vanno a funzionare gli smartphone Android. Per iOS ci sarà un aggiornamento, iOS 13.5, che integrerà questa funzione, quindi uscirà a metà maggio. E dopo l'uscita di questi aggiornamenti pubblici potranno essere finalmente distribuite le app. Quindi sì, come tempi ci siamo, credo che verso la fine del mese sarà possibile vedere qualcosa. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete raggiungermi anche attraverso Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo che la nostra puntata, come tutte le nostre puntate, è disponibile in edizione Super Podcast. Tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, l'applicazione di Radio 24 per iOS o Android, la nuova applicazione Radio Player Italia, che potete scaricare dall'Apple Store o dal Play Store, oppure potete scegliere le tantissime applicazioni che vi portano sul vostro smartphone gli audio da tutto il mondo, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Tra poco una interessante chiacchierata con Eugenio Sant'Agata, amministratore delegato di Cy4Gate, su cybersecurity, quello che sta succedendo, cose nuove, insomma un po' di punto della situazione. Adesso invece ci occupiamo di PropTech. Adriano Lovera, esperto di questo settore, è un collaboratore del Sole 24 Ore, benvenuto 2024. Grazie. Adriano, che cosa intendiamo per PropTech? Beh, PropTech semplicemente è l'unione di due parole, property e technology, quindi insomma tutte le tecnologie che ruotano attorno al mondo proprio dell'immobiliare. Sicuramente è il settore più, insomma, più fervente in questo momento. Noi ne scriviamo più o meno già dal 2019, l'anno scorso ci sono state tante nuove iniziative anche sul mercato italiano, e bisogna dire che nel segmento PropTech proprio l'anno scorso alcune società che posso citare, per esempio una è Casavo, una si chiama Dove Vivo, hanno raccolto già diversi milioni di investimenti da parte dei fondi di venture capital, quindi sicuramente è un settore che attira investimenti, ancora pochini in Italia, soprattutto nel mondo anglosassone, però per citare due cose, per esempio il Politecnico di Milano già dall'anno scorso lo segue con un osservatorio apposito e ha già catalogato esattamente 108 startup in Italia di questo settore. Recentemente alcuni imprenditori stanno anche dando vita a una sorta di associazione di categoria che si chiamerà PropTech Italia, appunto, ed è, diciamo, un segmento su cui l'attenzione si è rinvigorita in questi mesi di lockdown, come abbiamo imparato tutti a dire, perché effettivamente, insomma, molti operatori, per esempio anche gli agenti immobiliari su tutti, hanno dovuto un po' rivedere il loro modello di business, e anche le persone, stando a casa, che cosa volevano fare? Fare la maggior parte di attività possibili, ma a distanza. A distanza, quindi sì, sicuramente questo è un primo aspetto. Diciamo che il PropTech lo inseriamo in quei mega trend che mettono il suffisso tech a settori tradizionali, pensate il FinTech, l'HealthTech, e potremmo andare avanti per l'AgroTech, insomma sappiamo perché poi li commentiamo molto spesso. Quindi il interessante è che appunto anche in Italia, dove il settore immobiliare è abbastanza analogico e tradizionale, ci sia questo fermento. Appunto tu già accennavi a delle modalità tradizionali che si stanno trasformando grazie alla tecnologia, e forse fino a qualche settimana, mese fa, alcune di queste tecnologie applicate al mondo della casa, degli immobili, forse venivano un po' snobbate, si comprendevano le potenzialità, ma poi alla fine uno faceva tanti chilometri per andare a vedere degli immobili, sia che fossero immobili residenziali, sia che fossero immobili commerciali. Questo sta un po' cambiando, gioco forza, perché non ci si può muovere, o comunque siamo fortemente limitati, o lo saremo anche nei prossimi mesi. Che cosa, a proposito di esempi, che cosa sta succedendo? Quali sono le opportunità, le proposte? Guarda, stava già cambiando e adesso c'è stata un'accelerazione. Fino a 4-5 anni fa un annuncio immobiliare era semplicemente un testo che tu leggevi sui siti e poi prendevi contatto per andare a vedere l'appartamento. Poi gli agenti si sono accorti che era necessario almeno scattare delle buone foto di buona qualità. Adesso questo comincia a non bastare più, e proprio in questi due mesi c'è stato quasi un piccolo bombardamento di comunicati e di notizie perché tutti hanno cominciato a dare disponibilità della cosiddetta virtual tour, la visita a distanza dell'immobile, cioè uno strumento che ti permette di non solo di sfogliare le fotografie, ma proprio di introdurti nella casa in vendita, quasi come se tu avessi un visore. E molto spesso ci sono applicazioni anche che ti permettono di parlare direttamente con il proprietario, che ti spiega se tu hai una curiosità, se hai visto un muro, vuoi sapere come è fatto. Per fare un esempio, c'è una società molto giovane che si chiama Onpal, è non più una startup, però è un'agenzia virtuale, non ha il negozio fisico su strada. E loro nei mesi di marzo e aprile hanno organizzato circa 200 di queste visite virtuali e poi mi hanno riferito che almeno la metà di queste hanno avuto successo, nel senso che poi è stata fissata anche, quando sarà possibile, la visita di persona. Quindi lo strumento è interessante. Ora, insomma, 200 in tutta Italia sono tante, sono poche, questo è difficile da dire, però sicuramente è qualcosa che funziona. E questo virtual tour, per esempio, lo stanno implementando anche operatori tradizionali. Tu pensa un marchio come Gabetti, le agenzie Gabetti, credo che da anni noi le abbiamo viste tutti, anche loro hanno una virtual room che ti permette questa volta non di andare nelle case, ma di visionare i cantieri in costruzione e nello stesso momento parlare con l'agente immobiliare che ti spiega quale tipo di palazzo verrà costruito e anche con un consulente finanziario. Qui ci incrociamo anche un po' col fintech, perché quando compri casa molto spesso hai bisogno del mutuo, quindi con la stessa, chiamiamola videochiamata, tu parli con due referenti e sicuramente porti già avanti una trattativa che magari non ha nulla di nero su bianco, però hai fatto tutte le cose che fino a poco tempo fa non erano possibili, tu seduto a casa tua e loro a distanza. Senti, stanno cambiando anche i modelli di business tradizionali, cioè si stanno avvantaggiando le agenzie, quindi chi intermedia la casa o appunto un immobile commerciale, sfruttando la tecnologia, cambiando quindi il business tradizionale, il business model tradizionale. Sì, sicuramente. Infatti, diciamo, questo esempio che abbiamo fatto della visita a distanza è solo uno, ma ce ne sono veramente svariati e che talvolta magari l'utente finale non ha neanche la contezza, no, di quello che sta utilizzando, però il PropTech si caratterizza proprio per strumenti che hanno un altro contenuto di tecnologia, molto spesso sono software proprietari. O dei grandi operatori oppure di società di servizi. Posso fare un altro esempio. Tutti abbiamo sentito parlare, immagino, di Tecnocasa, quindi una rete tradizionalissima, no? Negozi fisici su strada, agenti immobiliari con la loro cravatta che vanno a citofonare con i collaboratori a chiedere chi compra e chi vende. Ebbene, loro hanno sviluppato un'app che stanno mettendo a disposizione degli agenti. Questo l'hanno fatto insieme a due partner che si chiamano Whois e il Cerved, altro nome abbastanza noto. Sostanzialmente, l'agente immobiliare Tecnocasa ha il suo cellulare con la propria app. Enrico Pagliarini viene da me e dice: "Vorrei comprare casa tua". Io dico: "Bene, agente, verifica un attimo se questo Pagliarini ha avuto dei protesti, ha avuto dei problemi in passato con le banche, se è una persona affidabile, se ha delle segnalazioni nelle banche dati che segnalano il rischio di credito". L'agente Tecnocasa guarda con la propria app e quasi in tempo reale me lo sa dire. Un'altra soluzione, per esempio, che stanno utilizzando tutti, sia le start-up sia gli operatori tradizionali, è la definizione a distanza del prezzo, diciamo la stima del prezzo di una casa. Ora, è chiaro che la stima finale con cui tu poi alla fine concluderai un rogito la devi fare con delle visite di persona. Però, se una volta la stima del prezzo su internet si faceva mettendo insieme poco più di due o tre variabili, no? Quello che magari le banche date dell'anno precedente avevano scritto. Adesso ci sono software legati molto anche alla geolocalizzazione che mescolano un sacco di dati, la famosa elaborazione dei big data. Allora io voglio sapere quanto vale casa mia in questo quartiere, in questa zona, di questa tipologia. Se I software guardano se ho vicino alla metropolitana, quanto sono distante dalle università, guardano quanto è richiesta la zona, quindi quante compravendite sono state fatte nel mio quartiere, diciamo negli ultimi 6 mesi. E così possono capire non tanto il valore di oggi, ma anche in prospettiva quello che sarà il potenziale valore futuro. Ecco, tutte queste cose si potevano fare, erano ancora grezze negli ultimi 2 o 3 anni, però adesso dovrebbero proprio prendere il là. E sicuramente questi mesi di chiusura hanno accelerato quello che dicevamo prima, insomma, la capacità di elaborare a distanza tante informazioni sono tutte cose che mi permettono di eliminare o comunque di accorciare dei passaggi. Sì, di rendere sperabilmente più efficiente tutto il sistema. Ci sono anche delle agenzie che, sfruttando l'efficienza della tecnologia, si accontentano magari di una percentuale più bassa oppure, diciamo, fanno business con altro. Da questo punto di vista c'è qualcosa di nuovo interessante? Sì, questo senz'altro, hai fatto bene a ricordarlo. Sono nate le cosiddette agenzie online, o comunque chiamiamole agenzie ibride. Per esempio, ti faccio un nome, Rock Agent, è una di queste agenzie ibride che lo scorso anno ha triplicato sia il numero degli annunci, ma anche il numero degli affiliati. Cosa vuol dire? L'agenzia di una volta aveva il suo ufficetto in strada con i cartelli cartacei, quindi aveva il costo di affitto, doveva avere dentro una segretaria, dei collaboratori. Adesso queste agenzie ibride cosa fanno? Inventano il marchio, ma poi semplicemente gli agenti vivono sempre in giro, seguono i clienti, al massimo affittano un coworking se devono prendere un appuntamento, però non c'è più il costo dell'affitto su strada dell'agenzia. Quindi questo ti permette di essere più economico anche nei confronti del cliente finale. Mediamente sul mercato immobiliare si è sempre utilizzata questa formula, sia il compratore sia l'acquirente pagano circa, diciamo, un 3% di commissione all'agenzia che li ha messi in contatto. Questa sta diventando un costo avvertito un po' come alto da parte dei clienti. Queste agenzie possono abbattere di molto la commissione oppure chiedere una cifra a forfè. Soprattutto nelle grandi città, Milano, Roma, così. Credo che in tanti ormai abbiamo visto i cartelli pubblicitari che dicono vendi casa a costo zero oppure vendi casa con una cifra, non so, 500 euro fisse. Questo proprio perché la tecnologia permette di dare un servizio che è pur sempre professionale, perché comunque sono sempre agenti abilitati, per cui diciamo adesso non è per fare pubblicità, ma bisogna fidarsi, ecco, di queste novità, e se si può fare con un prezzo minore, insomma, perché no? Assolutamente. Concluderei con uno sguardo sul futuro, su cose magari ancora più tecnologiche, perché fino adesso, del resto, tu stesso lo hai ricordato, stiamo parlando di tecnologie che esistono da un po' di tempo, ma il problema qui era un settore che è stato sempre molto lento nelle trasformazioni da tutti i punti di vista, quindi anche dal punto di vista dell'adozione della tecnologia. Oggi siamo obbligati a fare un certo tipo di scelte e magari questo servirà per un'accelerazione di tutte le proposte prop tech. Se invece diciamo, ci affacciamo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo magari in paesi più evoluti, che cosa vedi? Ma direi alcune tendenze sono queste. Un settore che prende sempre più piede è quello del crowdfunding immobiliare, cioè che significa investire piccole cifre in progetti immobiliari che ti vengono presentati su un sito internet semplicemente stando da casa tua. Quando il progetto verrà terminato e venduto, tu recupererai quello che hai investito con gli interessi che erano stati prospettati. Da noi questo settore sta già correndo, però molto probabilmente avrà ancora più un boom maggiore. C'è un operatore come Walliance che raccoglie già decine di milioni di euro e tanti altri ne sono seguiti dopo di lui. Poi, diciamo, se vogliamo andare un po' più sul futuribile, un'altra un altro filone interessante che finora ha visto alcuni esempi, qualcosa in Svizzera, c'è stato un tentativo in Italia, devo dirti un po' finito male, no? Per poi uno scontro diciamo a livello di regolamenti legislativo. Potremmo sentire sempre più parlare della blockchain unita alle operazioni immobiliari. Semplicemente che cosa potrebbe essere? I vari passaggi di una compravendita, la proposta preliminare, il contratto, il rogito finale, eccetera, pian piano negli anni, invece che essere scritti in maniera cartacea, dove poi tu alleghi i fogli del catasto e un sacco di mallopponi che poi perdiamo, ecco, tutto questo potrebbe essere scritto in maniera virtuale, digitale, in scrittura blockchain, che io non sono espertissimo, però insomma mi dicono essere una delle formule anche più sicure, no? Perché è difficilmente penetrabile e hackerabile. In ultimo, i famosi smart contract, che chissà appunto esatto. Io non ne ho mai firmato uno, però non esistono ancora, cioè di fatto non esiste praticamente nulla, quindi però certo è una prospettiva di cui si discute. E invece stavi dicendo degli Stati Uniti? Questa insomma diciamo è la suggestione con cui ti saluto. Da un po' di tempo si parla di arrivare prima o poi all'Amazon delle case, cioè arrivare un giorno a vedere su un sito una casa in compravendita, e se tu ti fidi così tanto intanto della società proponente, poi se ci fosse un sistema di prezzi stabiliti con certezze, accettato da tutto il mercato, se le informazioni catastali fossero sempre sicure, aggiornate, eccetera, tu potresti veramente a distanza vedere un piccolo bilocale nel centro di Milano o da qualsiasi altra parte e dire: bene, quella è una zona che funziona, ho della liquidità, io quasi quasi clicco, la compro. Magari non sarà un acquisto definitivo, potrebbe essere subito la cessione di un largo acconto in modo da fissare la compravendita. Però se ci pensiamo, insomma, la casa è sempre qualcosa di molto delicato, e anche perché deve essere il posto dove ci viviamo, o comunque anche se è solo un investimento è sempre pesante. Però in fondo ormai, insomma, con l'e-commerce compriamo veramente qualunque cosa, per cui se non proprio l'immobile intero, il diritto a possedere quell'immobile, chi lo sa, fra un po' di anni potrebbe essere davvero qualcosa che compriamo, magari non su Amazon, cambiamo un po' marchio, speriamo che ce ne sia uno con un nome diverso, però potrebbe essere fattibile. Molto interessante, grazie Adriano per queste ultime suggestioni, ma anche per averci raccontato questo mondo in trasformazione. A presto, buon lavoro, grazie. Grazie. Quasi ogni giorno, o comunque quasi ogni settimana, arrivano sulla nostra email messaggi di attacchi cyber, di campagne di phishing. Al centro c'è sempre la parolina Covid-19 o coronavirus, qualcosa del genere. E molti esperti ci dicono che in questo periodo tutto quello che commentiamo anche con una certa regolarità a 2024 che riguarda la cyber security sta crescendo, aumentando di intensità. Per parlare di questi temi è con noi Eugenio Sant'Agata, amministratore delegato di Cyforgate. Benvenuto a 2024. Grazie. Le faccio subito una domanda proprio relativa a quello che stiamo vivendo, quello che sta accadendo. Anche ultimamente alcune agenzie di intelligence, in modo particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, hanno richiamato un allarme che anche altre agenzie, altre società hanno fatto in tutto il mondo, di un aumento di attacchi o tentativi di attacchi non solo ad aziende ma proprio ad istituzioni, quindi centri di ricerca, università, istituzioni scientifiche, da parte di stati o comunque organizzazioni che in qualche modo fanno riferimento a stati stranieri. Poi ovviamente in questi rapporti non sempre si fa riferimento, si punta il dito verso una nazione precisa, ma poi si fanno un po' di ipotesi e saltano sempre fuori i nomi della Cina e di altri paesi. anche a voi risulta questo aumento, e soprattutto c'è un motivo, oppure quasi mi verrebbe da dire ordinaria amministrazione di lotte e battaglie cyber tra stati? È così, c'è sicuramente un aumento di casistiche di questo tipo, però è anche vero che siamo anche in una normale amministrazione, laddove sempre di più cresce la mole e l'eterogeneità di informazioni e dati a cui ciascuno di noi, nella sua anche individualità o collettività, è esposto, e nella misura in cui aumentano in frequenza episodi esterni, qualcuno li chiama externalities, come ad esempio il Covid-19. La combinazione di crescita esponenziale di informazioni non è direttamente proporzionale, questo ormai lo si è capito, alla chiarezza dell'informazione, e l'aumento esponenziale di minacce che possono minare il convivere sereno di una comunità o di una società. Oggi il Covid-19, in autunno potrebbe essere il Covid-19, nel 2020 potrebbe essere il Covid-2020, ci auspichiamo tutti di no, ma una calamità naturale, un'attenzione dovuta alla lotta per la supremazia sulle risorse energetiche o risorse naturali, l'acqua è un esempio, il sovrappopolamento, sono tutti dati inevitabili, dati ineludibili, a partire dai quali chiaramente per un fatto umano di dinamica c'è sempre qualcuno che è pronto a trarre profitto in maniera non lecita, tra cui anche chi opera nella rete. Quindi questi sono gli elementi alla base di questo dato che lei citava, che è sicuramente tale. Senta, dal vostro punto di vista, dal suo punto di vista, ad oggi chi è più in pericolo? Gli stati intesi come istituzioni, parlo ovviamente del perimetro cyber, o le aziende? Questi, i temi legati alla cyber security sono temi di cui si parla da tantissimi anni, e aziende e istituzioni a seconda dei casi si sono strutturati per difendersi, ma a suo modo di vedere la situazione oggi è più delicata e preoccupante per gli stati, le istituzioni, quindi poi di conseguenza anche i dati dei cittadini, o sono più in pericolo le aziende che hanno proprietà intellettuale da difendere? Nel caso specifico, se parliamo di Covid, ad esempio aziende che stanno studiando i possibili vaccini. Non credo sia possibile fare una graduatoria di chi sia più in pericolo, laddove ciascuno di questi soggetti che lei ha citato concorre alle fondamenta della nostra società. Possiamo però dire che c'è stata certamente una evoluzione, e quindi da attacchi a infrastrutture critiche o soggetti statali sempre di più si sta passando ad attacchi a infrastrutture che sono sempre critiche, non sempre classificate come tali, ma sono vitali per il funzionamento di un servizio o di un bene pubblico. Ad esempio, il focus ultimo, e sarà un trend in salita nei prossimi 5 anni, non è tanto più mettere in sicurezza il computer aziendale, personale, o il server dell'azienda, o il server del Ministero della Difesa, del Ministero degli Esteri. Certamente quelli rimangono dei gangli vitali, importantissimi da difendere, ma è il contatore della utility che è periferico. Quindi si assiste ad uno shift, ad uno spostamento dell'attenzione dall'information technology, il vecchio modo di pensare alla cyber security, alle operations technology, quindi a tutte quelle tecnologie che rendono possibile il funzionamento di un impianto. Quindi se pensiamo agli impianti di una società dell'oil and gas o dell'energia elettrica, sia essa a partecipazione o controllo statale, sia essa privata, il servizio erogato il lavoro svolto da quella organizzazione è fondamentale per la vita di tutti noi. Per poterlo permettere si usano sempre di più tecnologie che sono esposte, hanno dei livelli di rischio molto alti, perché non sempre, quando si è pensato l'impianto, sia in Italia che all'estero, si è pensato di farlo secure by design, in quanto c'è anche un'evoluzione tecnologica. Oggi il problema lo vedo più a valle che a monte, e di conseguenza mi preoccupo di due cose. Uno, che nel momento in cui c'è un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, un attacco di questo tipo si aggiunge a quanto già si sta verificando, con un impatto importante sulle nostre vite. E questo si porta dietro chiaramente un ripensamento radicale anche, o un'evoluzione, un suo adattamento della strategia di protezione. Lei lo ha citato, chiaramente risalire all'attaccante, il famoso processo di attribution, è particolarmente oneroso, però oggi sempre di più noi lo stiamo vedendo, in realtà degli strumenti ci sono. Non è infrequente poi risalire a degli attori statuali dietro regie di questo tipo. Non contano tanto i nomi degli stati quanto le risorse su cui siedono, quindi quanto si possono permettere di spendere per porre in essere questo tipo di strategie, che sembrano slegate, in realtà sono sempre delle strategie molto mirate a dei fini ben precisi. A proposito di risorse, normalmente vanno di pari passo le capacità che uno Stato ha di investire nel mondo fisico e quelle che uno Stato ha di investire nel mondo cyber? No, ed è un problema, perché gli investimenti effettuati sul mondo digitale in realtà possono non avere un ritorno immediato in quanto non tangibili, ma possono di fatto essere considerati strategici alla stessa stregua. L'acquisizione e la capacità di dotarsi di una bomba atomica fa sì che poi, quando essa venga utilizzata, sia impossibile coprirne l'utilizzo, l'impiego, perché nel momento in cui esplode un ordigno nucleare, direi che non è possibile celarlo alla comunità internazionale. Lo vediamo, lo abbiamo visto in passato, lo vediamo anche oggi su alcuni scenari dove c'è questo tipo di confronto. E tutto ciò che è digitale in realtà non è declinato allo stesso modo, quindi in realtà non si vede, non si sente, però per poter far sì che ci si protegga prevenendo, di fatto certamente gli investimenti ad oggi, tanto per usare un cliché, sono scarsi, andrebbero aumentati, ma non sono certamente rapportati a quello del mondo fisico. Lei è preoccupato, diciamo, dal punto di vista del come cittadino, le faccio questa domanda, ma come cittadino esperto di questo mondo cyber, è preoccupato nel senso che, visto il livello a cui siamo esposti, potrebbe capitare qualcosa di diciamo problematico, se non dire catastrofico, proprio pensando anche ai possibili attacchi a infrastrutture critiche, o possiamo stare abbastanza sicuri che comunque sia mettere in crisi un paese o una regione è complicato? Credo che sia molto complicato mettere in crisi un intero paese o un'intera regione. Un attacco che ha degli impatti importanti su una rete elettrica, su una rete ferroviaria, su un approvvigionamento di materiale primario, può avere certamente degli effetti e degli impatti importanti e delle conseguenze negative di rilievo, però sono quasi sempre destinati a essere contenuti nel tempo. Per contro, un attacco su vasta scala, oltre a essere estremamente dispendioso, in questo caso non è facile nasconderlo, non è facile concepire, organizzare e condurre, riprendendo una terminologia della dottrina di impiego militare, un attacco su vasta scala, senza farsi scoprire o dare qualche segnale, perché comunque contestualmente alla crescita esponenziale di informazioni tra loro molto eterogenee, come dicevo all'inizio, vi è anche molta più circolazione di queste informazioni. Quindi l'effetto sorpresa è molto difficile se uno vuole mettere in ginocchio un paese come l'Italia. Effetti locali invece certamente sì. Voi lavorate sia con i militari, con l'intelligence, con le forze dell'ordine e ovviamente anche con le aziende, ma se ci limitiamo a questo mondo e quindi anche a tutte le indagini cyber che ormai costituiscono una parte molto importante, la tecnologia che cosa permette di fare ad oggi? Bisogna distinguere tra cyber intelligence e cyber security. CipherGate, che è una società prodotto centrica, amiamo dire, quindi innovativa perché crea dei prodotti e delle soluzioni, ed è un esempio raro in Italia, laddove molti nostri concorrenti o partner in realtà sono impiegati nei servizi. Le nostre soluzioni sono soluzioni che permettono sia la conduzione di operazioni di cyber intelligence che di cyber security. Sulla cyber intelligence, chiaramente il limite è quello dato dal fatto che un'operazione di cyber intelligence, consistendo essa nella raccolta all'insaputa di un soggetto che chiaramente è sottoposto a un procedimento, questo è una doverosa premessa, il limite è legato allo studio delle vulnerabilità dei device di cui lui dispone, che possono essere gli smartphone o possono essere i dispositivi fissi come computer, personal computer, i laptop o anche un'infrastruttura IoT a casa. E sul mondo cyber security in realtà di tecnologia se ne parla, ma penso che sia più un fatto di mindset e di strategia. La tecnologia aiuta fino a un certo punto. Se devo citare un tipo di applicazione che sta certamente prendendo piede, è quello dell'uso massivo dell'artificial intelligence, sia sul campo della cyber intelligence che sul campo della cyber security, perché la mole di dati è talmente alta che la mente umana, che ancora è e rimarrà ineguagliabile per certi aspetti, fa molta fatica a effettuare operazioni di data mining, di correlazione, di fusione dei dati e quant'altro. Quindi se io sto cercando informazioni sul web, sul deep, sul dark o su database chiusi relativi alla possibilità che il Covid-19 sia stato creato in laboratorio oppure no, unitamente alle iniziative che un'organizzazione statuale può legittimamente pensare di porre in essere, le informazioni che avrò sono di una tale eterogeneità, perché avrò il testo che convive con la foto, che convive con il video, che convive con l'audio, che convive con l'esprimersi di un virologo, di un epidemiologo, che convivono con grafici, e quindi tutto ciò richiede degli algoritmi avanzati che vadano oltre la semplice indicizzazione. Se io penso soltanto a un Google alla grande, faccio poca strada. Devo pensare a un qualcosa che sia in grado, avendo chiarito bene cosa sto cercando. Quello è uno dei problemi a volte quando si fanno queste operazioni. L'artificial intelligence, il machine learning, che tra l'altro beneficia di enormi quantità di dati, può essere molto utile al fine di addivenire ad un quadro informativo abbastanza attendibile. E poi c'è il problema delle fake news, perché questo è uno degli argomenti su cui noi siamo quotidianamente impegnati a supporto chiaramente di chi conduce queste operazioni. Dividere l'erba buona da quella cattiva è un'operazione estremamente complessa ancora da fare, però l'artificial intelligence è trasversale. Sulla parte della cyber security vince chi capisce la strategia dell'attaccante. E chi riesce a mettere in piedi e a porre in essere una strategia di risposta. L'epoca del mi chiudo a riccio così non entra nessuno è finita e probabilmente non è mai esistita. Quindi è impensabile evitare che un ladro prima o poi entri in casa. Al ladro bisogna permettere di entrare in casa. Bisogna permettere di pensare che in realtà il controllo e il gioco ce lo ha lui. Quando non è così, allora che cosa conta? Contano algoritmi di simulazione, di emulazione di scenari, che costano, perché chiaramente sono investimenti, lo stiamo vedendo, io lo vedo tra l'altro in prima persona, e a ciò bisogna aggiungere, ok, che cosa faccio una volta che è entrato? Ora ho capito chi è, si chiama nome e cognome, e quindi... Ecco, quando poi c'è un'organizzazione dall'altra parte, questo, non siamo ancora arrivati a questo punto, la domanda è che cosa ci faccio con questa informazione? Quindi il mio sottolineare la necessità di avere sempre anche una strategia di risposta, chiamiamola anche una strategia di difesa attiva, in altre parole anche di attacco, se non altro preparata, predisposta, in gergo si dice predisposta e non attivata, è un passo in avanti. Se non lo si fa, beh, siamo poco più che all'antivirus, anche se ci sono poi ad oggi delle leggi, delle norme, tutto sommato abbastanza chiare rispetto a prima. Ecco, noi coniughiamo un po' l'aspetto della sorveglianza, l'aspetto della cyber intelligence applicata a operazioni di investigazione, indagini, di antiterrorismo, con l'aspetto della cyber security, e quindi posso dire che una sintesi è certamente tecnologicamente l'artificial intelligence con i suoi pro e contro, ma ancora prima il tipo di mindset che si impiega quando si conducono questo tipo di battaglie. Senta, quando si fanno delle indagini, posto che ovviamente è necessario il mandato della magistratura, però dal punto di vista tecnologico si riesce a far quasi tutto, cioè diciamo, dato un obiettivo, molto spesso con un'alta percentuale si riesce a raggiungerlo quell'obiettivo, che può voler dire raccogli quel tipo di informazione oppure trova quel tipo di persona, quella persona. Dipende molto da chi hai davanti. Se hai davanti un soggetto particolarmente scaltro da un punto di vista tecnologico, non è detto che ci si riesca sempre. Se invece si è nella, direi, normalità dei casi, si ha un'elevata probabilità di successo. Il punto è che non si può più pensare di utilizzare una singola soluzione tecnologica avanzata a piacere per avere 100% di probabilità di successo. Faccio un esempio: se io so che in una regione dell'Italia, in un casolare in campagna o in un terreno collinoso, è presumibile vi sia un incontro di una criminalità, di una qualche criminalità organizzata, non posso pensare di ricorrere soltanto a un tipo di soluzione. Devo pensare in termini sinergici. Poi da un punto di vista dell'impiego, da un punto di vista della fruizione di ciò che si raccoglie, è sempre e solo il magistrato e sono le forze dell'ordine o le agenzie che analizzano e valutano i dati raccolti. Da un punto di vista tecnologico, con un firewall molto ben tracciato e segnato, noi possiamo dispiegare molto, e quindi si può andare da un drone che può avvicinarsi in maniera stealth per fare una ricognizione, può raccogliere le sorgenti eventuali emesse da cellulari sul posto o da sorgenti wifi. È chiaro che il ricorso ai pizzini è sempre problematico per chi fa questo tipo di lavoro, però devo dire non è la normalità dei casi, fino chiaramente a porre in essere una sorveglianza che è il risultato del lavoro di più soluzioni che in maniera integrata insistono su quel tipo di obiettivo. Sono operazioni molto delicate perché chiaramente devi partire dal presupposto che il tuo nemico è sempre più intelligente e scaltro e preparato di te, ma la classica intercettazione telefonica, per capirci, quindi l'utenza singola messa sotto controllo, che è ancora molto molto utilizzata, è soltanto uno dei molteplici esempi che si possono fare, perché si va da lì fino a mettere sotto controllo tutto ciò che passa nei cellulari di chi in quel momento sta partecipando. Non sempre questo riesce, ma devo dire che i risultati sono tutto sommato incoraggianti. Senta, le faccio una domanda sul... passiamo al mondo delle aziende. Nella valutazione dei rischi che un'azienda fa, qual è il peso che le aziende, ammesso che facciano una valutazione che poi comprendano anche i rischi cyber, ma qual è il peso che le aziende mettono nel costo di questi sistemi? Uno potrebbe fare una valutazione e dire questo sistema di protezione mi costa di più dell'eventuale danno che potrei subire. O è un ragionamento sbagliato? È un ragionamento correttissimo, non ancora ampiamente utilizzato. Da una parte ci sono degli segnali incoraggianti, laddove il tema della cyber security viene sempre di più portato a un livello decisionale alto e quindi anche di sensibilità, e parliamo di consigli di amministrazione delle aziende, non solo quelle più grandi, ma anche le aziende medie e in qualche caso piccolo. Dall'altro non è sempre così, nel senso che è abbastanza raro ancora, se posso dare un numero, stiamo forse al 10-15% della popolazione aziendale totale italiana di aziende che parametrano l'investimento in cyber security sul tipo di impatto che questo può arrecare, o tipo di danno che può arrecare. È un fatto anche umano, fino a quando non sbattiamo violentemente contro qualche cosa, la percezione è sempre del sì ma non a me, sì ma in realtà, rispolverando un motto ormai largamente utilizzato nel mondo della cyber security, non si tratta di sapere se verrai attaccato e quindi qualcuno entrerà da te, ma quando. Ecco, da questo punto di vista c'è un passo avanti, dicevo, sulla percezione, quindi le società si stanno organizzando per includere nelle loro risk review l'aspetto cyber e misurarlo, e lo vedo anche nel mio mondo di riferimento, che è quello dell'industria dell'aerospace, defense and security, è sempre di più così. I budget stentano, e quello che sto vedendo però, ciò che sto vedendo è che contestualmente ad una situazione emergenziale, come può essere quella del Covid, che ha imposto a tutti di rivedere i piani di proiezione e consuntivazione del 2020, si va a tagliare anche il budget per la cyber security, come dire vabbè, tanto il rischio me lo prendo, però ho bisogno di tenere cassa. Ecco, su questo bisogna fare ancora un bel po' di strada, con delle misure che sono quella della alfabetizzazione digitale, che deve iniziare il prima possibile alle scuole già elementari. Pensare che un politico oggi navigato, che a malapena utilizza il cellulare, sia poi sensibile, ancorché intelligentissimo e acculturato, di scrivere dei testi o di indirizzare dei testi che vanno in questa direzione è un esercizio di stile, non trova conforto e confronto con altre realtà. Quindi alfabetizzazione sicuramente sì, digitale da una parte, e chiaramente il annoso, famoso binomio pubblico-privato, che deve essere a regole chiare ma sempre più virtuoso. In America questo l'hanno capito, ad esempio. Lei ha fatto più volte riferimento alla intelligenza artificiale. Concretamente come potrebbe essere applicate come la applicate? Ci sono dei casi di applicazioni concrete di cyber intelligence che sono destinati a prendere sempre di più piede. Ad esempio, se sono una multinazionale del lusso e ho una decisione al tavolo dell'amministratore delegato, viene portata una decisione sul se ingaggiare un fornitore di pellame o di altro bravissimo con un'alta reputazione di qualità, che però vive, risiede e opera in un'area ad alta densità criminale. Oggi, fino a ieri, gli strumenti che si hanno a disposizione per avere un quadro di informazioni quanto più possibile completo sono estremamente limitati, perché c'è la visura camerale, ci sono i database economico-finanziari, ci sono società ad alta reputazione che sono specializzate nella cultura dei dati, della loro diffusione, però è sempre comunque una picture statica, perché alla fine io devo capire se quell'azienda è affidabile oppure no, e non basta una visura camerale. Chi è il proprietario? Chi sono i proprietari? Sì, fino a qui si può arrivare, ma che storia hanno? Come pensano? Posso ingaggiare un investigatore privato? Certamente sì. E quindi posso certamente ricorrere a degli strumenti che faranno in modo che ci sarà un rapporto molto corposo, anche di tantissime pagine ben rilegate. E poi l'analisi di tutta questa mole di dati, che sarà estremamente eterogenea, perché io posso avere il testo di una visura camerale, posso avere un grafico di un bilancio, posso avere un estratto di un tribunale, di una fedina penale, posso avere un'intervista che magari qualcuno di loro ha rilasciato. Ma chi mette insieme tutto ciò? Qual è la ricetta che fa sì che tutti questi ingredienti, che ad oggi sono e rimangono nella stragrande maggioranza dei casi ingredienti, si trasformi in una ricetta? Quindi qualcuno che può dire bene, sì, no, e la mia decisione è quanto più possibile libera da errore, quindi ho abbassato il rapporto tra segnale e rumore, diciamo noi, e quindi di fatto abbassato le probabilità che ci sia un errore alla base. Allora l'uso di motori potenti di raccolta dati, di algoritmi di fusione dei dati che fanno convivere il testo con altro, l'uso di algoritmi che mi dicono anche se si esprime così significa che negozialmente la loro strategia è questa, se è successo questo è probabile che la condotta tipica sia di questo tipo, hanno questo tipo di network internazionale, eccetera. È un tipo di attività che si chiama sempre di più corporate intelligence, che non ha bisogno, perché rimane al di qua della rottura di qualunque credenziale, di decreti della magistratura o altro, perché non stiamo violando né la privacy né il sistema informatico di alcuno, ma sono informazioni liberamente accessibili da tutti, altrimenti note anche come open source. Il punto però qual è? Che sono tante, sono eterogenee, sono disperse in tanti contenitori, perché abbiamo il web, abbiamo i social, abbiamo il deep e il dark, abbiamo tutti i database economico-finanziari con cui l'azienda e i sistemi informativi di un'azienda possono essere collegati, e avere degli algoritmi che cucinano e fondono tutto questo. Alla fine all'amministratore delegato, al decision maker, serve un quadro di sintesi. Noi lo chiamiamo un pacchetto informativo finale, oppure un output informativo di cui lui può fruire anche su un iPad, per dire bene, qui credo che la scelta sia di questo tipo o di quest'altro, oppure forse è il caso di fare un supplemento di analisi, ma non ci si perde nell'analysis paralysis oppure nelle informazioni talmente diverse da loro che poi portano sempre alla fine a prendere una decisione nel ristretto cantuccio della propria coscienza e anche d'istinto, come spessissimo avviene nel mondo corporate. Quindi la cyber intelligence che nasce da altri orizzonti può essere applicata anche al mondo aziendale con questo discrimine e con questo limite. Le tecniche sono sempre le stesse, la raccolta di informazioni e la loro valorizzazione. Tante più sono le informazioni, quanto più sono eterogenee, tante più gli algoritmi di artificial intelligence, se opportunamente programmati, chiaramente potranno restituire un output che a me serve. E direi che questa è certamente una delle ultime frontiere, ma questo modo di ragionare riguarda anche la cyber security. Perché? Perché se tu fai l'analisi del sangue, quasi mai a fianco a un valore sballato c'è scritto: guarda, è probabile che tu hai questa patologia. Qualcun altro deve dire: è bene che tu faccia degli esami approfonditi perché ci sono dei valori alterati. Ecco, la tecnologia da questo punto di vista consente sempre di più un'analisi profonda, un deep learning, una deep analysis di questo tipo di informazioni anche sul mondo cyber. Quando succede qualcosa, quando un attacco cyber si verifica, ma le informazioni che insistono sulla scena del crimine, per così dirla, sono tantissime. Si va da dove è l'assetto strategico, dove sono collocati i server, qual è la temperatura esterna, quali sono gli eventi che in quel momento hanno concorso a far sì che quell'attacco cyber accadesse. Sempre di più notiamo che c'è una limitazione degli strumenti a disposizione di questo tipo. Quindi il mondo della cyber intelligence può dare un grosso boost e spinta a quella della cyber security, apportando degli algoritmi per l'analisi profonda. Quindi, per dire, dalla tua analisi del sangue, io ti dico che dal valore alterato di questo tipo, in realtà tu rischi questo, e te lo dico con questo tipo di probabilità. Non ti darò la certezza, ma intanto ti faccio risparmiare tanto tempo e probabilmente ti salvo anche la vita. Molto chiaro, molto interessante. Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo già detto molte cose, ma se guardiamo al mondo delle aziende piccole e grandi, i rischi principali sono sempre gli, o meglio, le minacce principali sono sempre più o meno le stesse degli ultimi anni, quindi phishing come forse uno dei veicoli principali per entrare in azienda, CryptoLocker, eccetera, eccetera, o c'è qualcosa di particolarmente nuovo? Le minacce che ha citato sono destinate a rimanere perché godono sempre di ottima salute, in quanto c'è sempre qualcuno che chiaramente è poco protetto o non riesce a proteggersi. Con l'implementazione progressiva del concetto di Industry 4.0, che poi nella pratica significa una massiva, crescente integrazione di tutti i sensori che vengono utilizzati in un'azienda, da quelli personali a quelli collettivi, si stanno facendo conoscere e anche apprezzare da un punto di vista della dinamica di attacco sempre di più attacchi che vanno sull'endpoint, si dice in termini tecnici. Endpoint significa la stampante in basso a destra vicino alla macchina caffè, che è di fatto sempre più connessa con altri dispositivi aziendali con i quali a loro volta i device come gli smartphone sono connessi attraverso vari semplici meccanismi. Quindi quello è un tema come l'IoT a casa nostra, l'IoT aziendale tradotto nella forma, e non è solo quello, ma per capirci, nella forma di Industry 4.0 è un nuovo terreno di scontro che farà in modo che non ci annoieremo per niente insieme ad altri tipi di externalities come quello che speriamo abbiamo trascorso nei prossimi 5 anni. Dottor Sant'Agata, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie. E così concludiamo questa lunga versione del nostro super podcast. Visto che la settimana scorsa, in occasione del 1º maggio, non siamo andati in onda, abbiamo un po' recuperato alcuni ascoltatori e avevano detto: però la prossima volta fate un po' di più. Adesso, questa settimana, effettivamente abbiamo dato una spinta al nostro super podcast. Grazie come sempre per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.